ogni vibrazione di respiro, l'umidità ed il sudore della pelle, il cambiamento della voce delle pupille, perché di certo sentimenti lei capisce, e per punirti tramortisce con le scosse, e se ancora tutto questo non bastasse, ti darà tanto dolore e da qui non si esce, non si esce, non si esce. E quella macchina che misura le pulsazioni, le vibrazioni, il respiro, l'umidità e il sudore della pelle, il cambiamento della voce delle pupille, perché di certo sentimenti lei capisce, e per punirmi tramortisce con le scorse, e se ancora tutto questo non bastasse, ti darà tanto dolore, e da qui non si esce, non si esce, non si esce, non si esce. E quella macchina che misura le pulsazioni, le vibrazioni, il respiro, l'umidità e il sudore della pelle, il cambiamento della voce delle pupille, perché di certo se tu menti lei capisce, e per punirti tramortisce con le scosse, e se ancora tutto questo non bastasse, ti darà tanto dolore, e da qui non si esce.